Marco Sepoa. Hola. Buongiorno anche a te, come stai? Tutto a posto, sì? Tutto a posto, niente in ordine, è un casino. Ti spiegherò in seguito. Caragata. Io sono qua vicino a Patavona, ma mi ascolti, sì? E la voglia che ti ascolto. Stai a Patavona, arrivo, proprio. Ciao, vivi bene, non ti preoccupare, tu fregatele. Sei a posto. Vabbè, sto scendo liscio adesso, capito? Lo so. Sono nel discesone adesso, capito? Non so se mi ascolti ancora. Ti ascolto, non ti preoccupare. Vabbè, è tutto a posto? Più o meno sì, la verità, più o meno sì. Signorizia, andare meglio così, dai. Sono contento. Poi quella cosa là, quel tipo ci ha chiamato un camion per farselo portare e se l'ha fatta installare quel tronco, quella trave, se la prende in culo. Vabbè, se la prende in culo davvero, cosa vuoi che ti dica io? Oh, piacere mi ha fatto io, Antonè, capito? Anche a me, non sono l'altro. Certo, ce l'ha fatto sul culo lì, ma era bisticciato, cazzo voleva? Che se deve prendere una trave, 4 metri con la manca, l'hai detto tu manco, vai, gli ho detto. Ti prendi una volta, te la porti lì e poi io te la posso piazzare. Io non ne posso caricare trave da 4 metri sulla manca, oggi è un cambio la macchina mia. Hai fatto bene, veramente bene. Ho capito, cazzo la gente è scema, ragazzi. Già lo so, già, non dirlo a me. Per carità, quanto sta arrivando il segnale, Antonè? 9:20. 9:20? Eia. Con quel cartellino piccolo? Sì, con quel cartellino piccolo, sta arrivando 9:20. Vedete che spara bene questa antenna, cioè, un'antenna piccola rende quanto quella grande? Lo so, appunto per quello. L'hai vista quella antenna ciò, sì? Eia, me l'hai detto tu. È un'antenna questa qua che non la fanno più sicuramente, c'è la carica. C'è un'antenna rotto radio. Già va bene, voglia. Mi serve un'antenna per macchina. Guarda se ne hai una che non ti serve. Un'antenna per macchina, forse ce l'ho, la posso trovare giù in campagna. Con la basetta naturalmente, basetta e antenna, se ce l'hai non c'è problema. Va bene, Antonio, se c'è nel campo te lo dico, se ce l'ho non c'è problema. D'accordo, ok, ti ringrazio, lui ci mancherebbe. Ma figurati, con tutto il casino che c'ho in quel garage, qualche pezzo d'antenna ci sarà. Vabbè, quello sì, senz'altro sì. Quando c'è non controllo, se c'è ti avviso, dai. D'accordo, già sono qua a casa, intanto a un certo punto sono qua. Io adesso sono all'incrocio, quasi domani, capito, mia, io sono alla ristagione, che c'è la linea di sorso, ancora. E io ho capito, adesso sono qua, ti sento bene, non c'è problema. E mia, è sempre uguale, ho inciso. Santiago 5-6, non ti preoccupare, 5-6. Sì, già va bene, dai. Vabbè, doppio rum. Hola, hola. chiuso tutto quanto, l'ho spolverato stamattina e invece l'ho fatto girare e l'ha chiuso completamente. Facciano due cordini. Ma c'era, quando è domenica, c'era qualche cosa in zona di Sassarese, perché sentivo da casa le canzoni. Domenica, per cavolo vero io, buh. Non lo so già, non ho idea. Domenica ero... Domenica ero di servizio, ero alla processione. Penso che fosse lì nella pinetta di Badimanna, sicuramente, perché si sentiva benissimo, le canzoni sassarese. Adesso non lo sai che sono candidato come guardia ambientale già. Adesso devo fare l'aggiornamento, poi mi danno il tesserino. Comunque sto già uscendo, dai. Abbiamo multato più di una persona per quanto riguarda il cane, lì ai giardini pubblici. Ma scusa, ma non hanno niente a che fare le guardie ambientali con le guardie... come si chiamano? Le guardie zoofile. No, non ho niente a che fare, ma anche noi siamo guardie zoofile. Ah, guardie zoofile, sì. Esatto, facciamo parte delle guardie zoofile, sì. Ho capito. Ma non siete pagati? No, è volontariato, però se ci chiamo per le feste veniamo pagati. Ecco, ho capito. Vabbè, l'avevamo formata anche nella CISO, un gruppo così di guardie zoofile, c'era Agostino, tutti quelli lì. Poi non lo so se stanno ancora andando avanti, c'è anche Giuseppe Mangolo, Tornado. Sì. È bello, dai. Ho fatto una passeggiata. Abbiamo bloccato questo signore, poverino. E da due ore faceva entrare il cane nel verde lì nel giardino, sennò non può entrare il cane, perché c'è il divieto proprio. Allora, abbiamo seguito la mia collega, l'abbiamo fermato. Da lì due ore che fa entrare il suo cane lì, poverino, poi vabbè. Comunque il cane ci vuole la museruola, anche se il cane non è cattivo, lo devi portare appresso. Se no ti mettono la multa, già lo sai. Le bustine, e poi a breve devi portare anche lo spruzzino, lo sai? Lo spruzzino? Io praticamente il cane c'ha sia le bustine sia la museruola indossata, non appresso, perché io direi tu la porti appresso, se poi il cane si gira di colpo non ce la fai a metterla, è un casino. Io gliela metto sempre, poi quando torno a casa gliela tolgo. Cioè, se il cane sai che ha quel comportamento lì, allora come ti la lasci, ovvio. Però se il cane è bravo, mica la guardia per dire è bravissimo. Infatti non... ti appaia e basta. E poi ci vorrà anche lo spruzzino. Secondo dove sei, magari sei al centro, non esempio sta facendo, ma c'è a piedi. Noi dobbiamo beccare quelli grandi che fanno il... che fanno credere su marciapiedi. E quelli perché sono persone ineducate, normale. Sì che uno la può fare dove c'è l'erba, ma nemmeno pure, perché anche da lì io la raccolgo. Però quando la fanno fare nell'erba, tanto quanto che poi diventa concime. Però nel marciapiede è di buone di qui. Capisco, è un po' in campagna, ci può anche stare, ma guarda, siamo passati in via Dante, una puzza di merda, è tutto pieno di merda con il marciapiede. Abbiamo fermato questo tipo, si vedeva che era un po' affeminato, si vedeva che era... Vabbè, comunque, abbiamo fermato, mia collega gli ha chiesto la museruola, poi gli abbiamo chiesto di come si dice, li facciano controllare, c'era il microchip, è stato tranquillo, non avessimo né niente, e poi alla fine abbiamo chiesto le bustine. Quando sei così, e poi la museruola, anche se il cane è bravo, perché questo cane era bravo, come si dice, rispondere e portare dietro la museruola. Allora, l'ho fatta a Canina la muta, che è un cane, un cocker, come quello di Franco, ce l'ha presente, è nero così. E quando vede la gente va incontro a salutarla, dice, ma lascia quanto è bravo. No, mi ha fatto male una mosca quel cane, il padrone lo lascia libero, in piazza della Meridiana lì e... Purtroppo gli hanno messo la multa, gli hanno detto che doveva tenere a guinzaglio, gli hanno messo la multa anche a Tyson, cioè mi hanno fermato due volte, una volta a Piazza della Meridiana, mi hanno chiesto tutto, microchip, se ce l'aveva, ho detto sì che ce l'ha, se lo prende ce l'ha nel collo, che sapeva che la vigilia della macchina e detto, che forse è meglio che gliela passi lì, se non avevo passato io la macchinetta perché loro non si fidavano, capito? E un'altra volta sotto il muretto dei mormoni stavo uscendo da casa, Tyson era a fianco al muretto e si è fermata questa macchina in borghese, un Alfa Romeo, sono scesi in tre e sono venuti contro di me. E che cazzo vogliono questi qua? Il cane come li ha visti? È normale che gli vede il cazzo per questi incontro, il cane pensa che ti vogliono picchiare a Roma e diventa aggressivo, normale, no? E mi hanno detto, questo cane è aggressivo, la museruola non ce l'ha. E io dico, no, non è aggressivo, solo che vi siete posti male voi, perché siete venuti in tre, con questa valigetta, accate in tre, borghese. E il cane è normale che ti vede andando verso il padrone, così, tre persone così, è normale che si gira. E anche quelli lì mi hanno chiesto di prenderlo io, mi metto la prossima volta si porti la museruola appresso, e io tra me dice, te la dico a passeggio, la porto, se me la metto addosso, ma appresso cosa ne fai? E mi sembra una cosa inutile, Luca, questa storia di portarla appresso. Papà l'ha spiegato, cioè se il cane è bravo, va bene, ci sta, capito? Robusto buoni a dea, non è aggressiva, cani aggressivi, cani che si girano, ma per caso era una panda bianca. No, c'aveva un Alfa Romeo, adesso non mi ricordo, c'era una 164, una cosa del genere. Si sono fermati, sono scesi di colpo, sono venuti verso di me e mi hanno chiesto documenti, questi hanno detto documenti, non ce l'ho, però abito qua, se avete un attimo di pace già salgo, li prego. No, non c'è problema, dove abita qua? Ma il cane è tranquillo, sì, tranquillo, ma lo sai cosa c'è? Che magari si è posto così perché voi siete venuti in cotice, cioè, sì, l'ho capito, vabbè. Comunque, li porti la museruola appresso perché non si sa mai, e io adesso la museruola la metto sempre perché secondo chi lo tocca a Taiso si gira, capito? Se non gli piace la persona si gira, è come noi, no? Noi evitiamo la persona, se non ci piace invece lui si gira e gli salta addosso, capito? Ah, forse ho capito che ti ha bloccato Pietro allora, la buon'anima. Grigia la macchina. Mi sa di sì. È morto Pietro, allora era capitano, era. Comandava lui. Ma la persona è in gamba, non è perché già, lui alla fine gli ha dato quel compito, anche tu l'avresti fatto. Anche tu. Comunque stavo cercando candidati. Se vuoi candidare, lo fai sapere, è bello, fai nuove conoscenze, fai nuove, come si dice, fai nuove esperienze, capito? È l'assoluto che fa un bel di nemici, capito? Secondo chi trovi, adesso per dire, se vieni vicino a casa, gli giochi si chiamano con il pitbull, senza guinzaglia, cosa, tutti gli dicono cosa, però non fanno niente. E loro dicono che sono bravi i cani, sono bravi, è un cavolo, il pitbull non è bravo, perché è come il leone. Con l'addestratore è bravo, poi a volte gli capita di girarsi, si gira e si rumagna. E così è il cane, è il pitbull. Ha fatto quel carattere lì, a me me l'ha detto l'addestratore, che non dicano cazzate, che è la colpa dei padroni, il 20% può essere dei padroni la colpa. Però praticamente il resto è tutto indole del cane, perché sono cani che sono stati fatti apposta per i combattimenti, per cui hanno questa indole e bisogna stare molto attenti con questi tipi di cani, non avvicinare le bambine né niente, perché sono cani cattivi. Ma anche quelli lì sta, anche quelli grandi noi fermiamo. Tranquillo, guarda che loro adesso sono, come come si dice, sono in contatto con i vigili urbani, anche la radio hanno, in caso di emergenza comunicano tramite radio, c'è anche la pistola. Chi ce l'ha la pistola? Noi ce l'abbiamo, allora. Ah, siete armati, ma io non mi ricordo che le guardie fossero armate, non me lo ricordavo. Sì, c'è la pistola. Quindi dovete fare tirassegno anche. Secondo te sì. Figlia. Vabbè, qua non posso parlare da. Sì, vabbè, non è niente di che, Lu. È una cosa normale che vedono tutti, non è che. No, ma solo come la situazione, perché te l'ho detto, dal CISO si era formato un gruppo che aveva fatto le guardie di ufficio, tra cui c'è anche quella persona che ci ho detto, capito? E c'è ancora, Agostino è morto, poveraccio, Agostino è morto, c'è la moglie, sua moglie c'è, però lui è morto, è andato in pensione e se n'è andato, poveraccio. Sì. Sì, te l'ha fumato Pietro, con i colleghi sicuramente, con i colleghi. Purtroppo che era malato di tumore, pensava di stare bene, ma stava bene alla fine, era non era mangiato. Poi si è dopo ricoverato, sicuramente dall'ultimo ricovero non ce l'ha fatta, qualche appaletta, ma la persona veramente in gamba, ma non in gamba di più. Ci credo, no, ma io non è che ce l'abbi con loro, solo che si sono posti male, io non ho neanche dato bene perché sono in regola, il cane c'è vaccinato, c'ha tutto, c'ha le sacchette per i bisogni, c'ha tutto quanto, c'è la museruola, il guinzaglio che è in regola, non è di quelli che si allungano, che non si possono tenere, il mio è un guinzaglio normale, non è né l'addestramento, prima ce l'avevo quello d'addestramento, quando lo portavo in campi larghi usavo quello, però adesso già l'altro giorno per poco cazzo non crepa, l'è entrato un po' la sacchia dentro al naso, ce l'ho per fortuna che mi sono portato una pinzetta appresso, perché so che queste cose possono succedere, mi sono portato una pinzetta e ce l'ho fatta a toglierlo perché era appena fuori e sono riuscito a toglierlo, se no stava sempre starnutendo, ma ho già giubbato, ho dovuto arrivare a casa mai per toglierlo perché giù non facevo. Sì, poi dipende, io come vedono cani grandi fermavo subito, capito, io ho iniziato, quello lo conosco, non è iniziale lui, quello lo conosci, fatti a trovare, ne ho visto uno ai giardini, lo stavo facendo passeggiare, perché loro stavano andando da una ragazza che aveva lasciato libero ai giardini, in mezzo all'erba, ed è sbagliato, non si fa perché c'è un divieto. E io sono andato, ma questo qua ha detto che lo conosco, leva il cane dal se non ti vuoi prendere la multa, dal verde, perché il cane nel verde non può stare. Invece ne ha bugato, se l'ha tenuto vicino, e te lo sto dicendo che ti conosco, poi alla fine una volta la posso fare. Lo so, già ti fai nemici, però se uno... se lo fai tu e fermi a me, me lo dici una volta, che sono un mio amico, mi avvisi, se non si può, non si può. Io ne conosco gente, che tipo Balaccelli, che lo fanno comunque, se ti fermano. Ma, te lo dico a loro, lui guarda, sono un amico, però cerca di, insomma, di stare attento, io sto attento. A me mi avevo fermato col cane in Balaccelli, proprio in Balaccelli. Ero vicino a Cassoletto della Mondetti, hanno fermato prima la donna, gli hanno chiesto i documenti, stavo passando lì col cane. E a questa signora gli hanno detto dove abitava, gli ha detto abito a Sant'Orso. E come sta buttando la Mondetti qua? Vabbè, gli ha detto io lavoro da una signora qua vicino, mi ha chiesto la cortesia di buttare la Mondetti, io faccio la badante a questa signora. Ah, va bene. Poi hanno fermato a me ed era il periodo che bisognava indossare la mascherina obbligatoriamente da quando uscivi da casa quando rientravi, e loro erano senza mascherina. Mi fermano, mi chiedono tutto, ti aspetta che la raggiù io. Dopo che mi chiedono tutto, ho detto, beh, come mai siete senza mascherina quando c'è l'ordinanza del sindaco che bisogna mettere la mascherina quando si esce da casa? E ma quello lì si fa solo quando c'è il cumulo di persone. A parte che noi siamo tre, siete voi, uno sono io, l'altro la signora, e siamo già in cinque. E quindi il cumulo c'è. Poi non è vero che è così, perché anche se esci da solo, la casa la devi indossare. E sono stati zitti, laggiù, proprio fulminati. Però purtroppo c'è gente che fa cagare il cane sui marciapiedi, è sbagliato già. Dai, uno schifo. Oh, ma quelli lì è giusto che si metta la multa. Allora io ne ho visto una da casa, ed è una signora, con tutto il rispetto, una persona, cioè che tu ritieni una persona tranquilla. Ha fatto la cacca il cane sul marciapiede, io l'ho visto dal terrazzo, lui mi ha preso, l'ha tirato in fretta e se l'ha portato via, capito? E la stessa, lasciato la cacca lì. Per dirti, e stavo per dirlo, fra me, grazie che, cioè, capito? Non va bene, dai. Assolutamente no. So, penso, ma io non l'ho mai fatto una cosa del genere, io la raccolgo. Cioè, a parte la multa, è una questione di educazione proprio, che se uno di buoni rubini ci passa tutta la carta alla bocca. Infatti. Poi ci sono cani e cani, sono quei cani che cagano a quintali. Luca, ma la vuoi sapere una cosa? Una volta ci ho messo il piede su una cagata così, sono scivolato e sono caduto. Mamma mia. Hai capito? Cioè non è solo il fatto di sporcarti, è il fatto che ti puoi far male anche, perché quella gli era sicuramente sciolta cosa. Come ci ho messo il piede, sono scivolato di brutto, gioco caduto, poi gioco tutto, ed ero testa alla meridiana lì. E praticamente ci sono caduto in mezzo all'erba dove c'era tutto pieno di cagate, mi sono tutto canto bruttato, di pantaloni, tutto canto. Sono caduto male, perché cazzo c'è, non te l'ho mai scivolato proprio di brutto, come sulla buccia di banana, la stessa cosa. Beh, scivolosa. E a quelli o non li beccano, o io mi va male. Vivi basta in corso Trinità, che ne trovate cani bastardi, senza guinzaglio e di grossa taglia pure, a rompere i coglioni. Ma già passiamo per il Natale, adesso glielo accendo. La mattina Natale o la sera. Di manzana e di sera, Piso. E di da cani liberi, gatto. Guarda, già due volte me l'hanno azzannato il cane mio. Finché non esco la pistola e ne ammazzo qualcuno davanti al padrone. E adesso glielo accendo. Comunque che dopo della ragione si bacia lo duccio, Fatto è quello. Ah, ma io adesso per dire l'altro giorno ero col cane. Stavo facendo fare la pipì in una aiuola, anche se non si può lui. E a un certo punto mi giro e vedo questo pitbull che stava dovendo scendere a Taiso. Cazzo, mi sono cagato sotto. Il padrone, no, non ti preoccupare, non fa niente. Poi era una femmina. E quindi tu si sono venuti a giocare, si sono messi a giocare tutti e due, però tu vai e conoscilo, all'inizio mi sono spaventato. Ci credo. Sì. Un casino, questi cani. Lo sai cosa c'è? I casini non sono i cani, sono le persone che li tengono, non li stanno a gestire. Il mio cane non ha mai seccato nessuno, perché io lo gestisco in una certa maniera, tutti mi dicono poverino, non è poverino, io nemmeno a me piace mettere la museruola, ma se so che è così il cane, perché lo devi lasciare senza museruola, fa massacra chi lui? Certo, il cane in teoria deve essere anche, come si dice, educato, che se lo lasci fare, se lo lasci fare e fa quello che vuole, addio. Devi essere tu il capobranco, devi comandarlo tu. Io a volte, adesso io non lo porto più dove ci sono i forassacchi, perché già ne è entrato uno nel naso e non voglio che ne entrino altri, lo porto dove ci sono delle parti di erba verde e delle parti di cemento, così almeno non ha probabilità che li possa entrare, capito? Lui cerca sempre di andare nei posti dove andavamo prima, anche dove ci sono i forassacchi, lo tiro io, sino a quando vinco io sempre. Ho capito. E tu li lasci fare ciò che vogliono, buonanotte. Lo so già. Purtroppo fanno quello che vogliono. Tu pensa, quando siamo entrati noi, sono tutti spariti. C'erano un... Allora, i cani grandi erano, questa dove c'è la fermata di entrata, l'altra entrata lì. Come avevamo visto a noi, su, tutti spariti. So. Ma voi di Visa siete in borghese? Io ho la divisa, gli altri borghese perché hanno le serie. Faccio capire. In borghese bisogna andare, se no vi trovate col cavolo. Adesso per dire, ce n'è una piazza americana che fa giocare il pastore tedesco, è una femmina, bravissimo, si lancia la palla, lui va la prende, e quando arriva a terra gli va incontro per giocare, non fa male una mosca, però io all'inizio, un giorno glielo ho detto, lei che quel cane, io sto salendo, non devo chiedere permesso a lei per salire, no, ma non fa nulla, non ti preoccupare, è bravo, e cioè io non lo so se è bravo o no, poi la femmina non gli fa nulla, vabbè, se è femmina è un'altra cosa, poi ci sono anche le femmine che sono cattive con i maschi, perché ce n'è una vicino a casa che è tipo uno Yorkshire, però di quelli grandi, anche tante mare, una è quella e l'altra è come si chiamano quelli che vanno nell'acqua, ma e quello lì, una femmina lo stesso, ha aggredito altri cani, l'hanno denunciato anche perché questa femmina aggredisce sia i maschi che le femmine, tutti i grandi, non li bovini. Lucida Labrador. Il Labrador. Ma i Labrador sono bravi già. Ma questo è cattivo, Luca, te lo assicuro, è cattivo, perché lo lasciano sempre dentro il cancello. C'ha il garage, un pezzaretto d'entrata e poi il cancello, lo lascia sempre così libero. Quando passano i cani, a volte lui riesce a saltare. Cose. Ed è cattivo, ti sto dicendo, dipende sempre come li tieni i cani. Il Labrador è un cane bravo, si sa che è bravo, però questo qui è cattivo, è quello che conferma la regola. Ah, no, di solito il Labrador è bravo, di solito. Comunque. Ci faremo un salto dove c'è Natalino. E non va bene, dai, non va bene già. Tanto passano, ci sono anche le... la zoofila proprio, sono quelle zoofile quelle. Noi facciamo parte, però noi siamo guardia ambientale, capito? Voi mi interessate più dell'ambiente che gli animali. Anche animali. Se noi ti vediamo che c'è il cane senza microchip ti fermiamo. Ah, senza microchip, senza guinzaglio. Ah, se no ti guardi un cazzo, sapete se guarda il microchip, se non lo spari con la pistola. Già dal fatto che un cane grande va a aggredire un cane piccolo, non sta bene, no. No. C'è una regola, esiste una regola. Tu come mai ti è venuta questa passione di entrare? È una cosa bella, è una cosa bella, però io per dire conosco una persona che lo faceva e l'ho bruciato la macchina, è per quello ti fermi di nemici. Vabbè, magari bruciami la macchina, adesso non la c'ha più io. Lo so, però tanto vedi, ha detto cosa gente poco raccomandabile. Ti ha messo la multa e cose, si sono vendicati così. E lui ha annullato proprio, ha detto, non le faccio più, ci ha rimesso la macchina, basta, finito. Proprio per un mese di tempo per diventare quaglia zoofila. Ha bisogno di buoni 2 anni. Chi lo dice questo, Natali? No, assolutamente no. Non ci vogliono 2 anni. Devi praticamente. Mi sono candidato tramite il sito, poi da lì sono già fatto servizi con loro, no? Mi hanno chiamato a fare servizi per vedere come funzionava qualche uscita, poi da lì mi hanno dato, prima usavo la casa, la pettolina, adesso mi danno solo la maglietta proprio, adesso devo fare il giuramento, poi mi danno il tesserino. Ma cosa dici? La prima vi puriamo 2 anni di corsi e ti ritrovi pagato a diventare guardia zoofila, capito? Minimo 2 anni ci volevano. A cantare il tesserino tenere gli attaccati. Sì, l'ha fatto Giuseppe Tornado. L'ha fatto. E più di 2 anni ci volevano. Sempre facendo corsi dovrebbe stare. Devi studiare, devi leggere. C'è un libro che ti dà, devi studiare. studiarti le leggi, perché devi conoscere le leggi, non è che puoi andare così a capofitto a Mecklenburg senza conoscere le leggi, devi conoscere le leggi, puoi fare il giuramento. Infatti mi stanno affiancando per sapere come funziona, mica da oggi all'indomani o no. Beh, poi devo fare due corsi, uno è, come si chiama già, quello che lo fanno per le ambulanze, uno è antincendio e l'altro è BLS, può essere? Sì. Devo fare quei due corsi e me li fanno fare loro. E cosa non è proprio di BLS voi? Ma sono per averlo, per essere, diciamo, è un addestramento nel caso succeda che magari girando succeda qualcosa potete intervenire così. Ho capito già, scusa? Ho detto, cosa ve lo fanno a fare BLS? È un corso che vi fanno così per intervenire magari in caso trovate qualcuno che sta male. Anche. Se ci vuole, ci vuole. È un antincendio. A me mi avevano proposto di entrare nei, praticamente, la polizia di Stato c'ha praticamente dei volontari, si vestono, c'hanno la divisa, tutto quanto, cappello, eccetera eccetera, e fanno servizio così nelle, come fate voi, dai, nelle processioni, tutte queste cose qua. Ho capito, li ho visti, sì, c'era la maglietta, uscito polizia, sì. Sì, ma poi non posso intervenire, devono chiamare, come una persona normale, se vede qualcosa che non va bene, fa una telefonata alla polizia e via. Sono così, non possono intervenire, no? Lo so. Infatti io gli ho detto, se c'è, ma che autorità c'hai? No, no, nessuna autorità, noi andiamo solo per fare prevenzione, così tutto qui, allora non mi nappuccino. Beh, certo. Sì, che non piano, dai. Non ce ne ho fretta. Tu, se ti piace una cosa bella, ti occupa, eccetera, dai. I servizi quanti ne faccio la settimana? In teoria devi farne due al mese. E quindi non è nemmeno tanto, là. Non è manco tanto. E mi prendete dal comune, così è. Sì. E al capo dottore, se tu sono guardie zuffile, quelli lì. Il CISO ha formato le guardie zuffile al capo dottore. Quelli del CISO di capo dottore sono anche guardie zuffile, ci sono le guardie zuffile. Ehi, ehi. Già. Casino, questo cazzo di gente che fa cagare i cani così. Ui, lasciamo perdere. Un attimo, c'è una cosa che non va qua. Aspetta. Per comprare queste persone volevamo mettere anche la tassa sui cani. Non vedrei quanto ne abbandonano se mettono la tassa. Molta gente preferisce, non può farlo, pagare la tassa e li abbandona. Ah, quello già è ferro. Ma se il cane l'abbandona, i microchip sono fregati. Ma infatti, ma dicono che gli è scappato, magari. Comunque è multabile, anche se tu trovi un cane in giro così che è scappato da qualche campagna, lo sai che è multabile, perché è un'amica mia che gli era scappato due volte il cane dalla campagna, l'hanno trovato le guardie zuffile e volevano mettere a un telefono, la prossima volta le mettiamo la multa. Fai già il telefono, riprendi Natalia. Ma che erano armati, non lo sapevo io, pensavo che fossero volontari così e basta. Natalia. Già sto mangiando, sto. Ah, ok, dai, non c'è problema, dai. E adesso vado anch'io, devo portare giù il cane, speriamo di non trovare a Luca. Attento mio hermano della scusia all'isola della Sardegna, adelante ve lo comprendito, per favore. Adelante mio hermano, scusi la Sardegna. L'operador Gianni Delta Romeo della città di Sassari, nord di Sardegna, Italia. Ciu ciu ciu. posizione e attenzione fino al 10, cambio. Ciao Fuggi. Mai, no, sono al computer già, sto facendo un progettino, dai. Progetta, fammi una casa bella, una bella villa. Caccai. Oh, non ho visto uno, Luca, che invece che averlo come il tuo ce l'aveva enorme, faceva pezzi grandissimi. Tipo la fabbrica. Faceva pezzi. Quello lì, quella parte dell'acquario, vabbè, sono riuscito a aggiustarlo, l'ho aggiustato con l'acqua caldo, nera, non si vede nulla. Sono riuscito a aggiustarlo perché si è spaccato in mezzo. Sono di usare la resina o comunque una colla bicomponente, allora tiene. No, io lo so che cosa ho fatto, prima gli ho allargato il taglio, gliel'ho messa in mezzo e poi gliel'ho messa esternamente da tutte e due le parti. E adesso è diventata proprio dura, la colla è diventata dura. Ah, meglio così. Ok. Che regala. Attenzione, dici, Luca ci sei, se no sono andato via, dai. Buona serata a todos.